come dire. Intanto parto la domanda facile. Ti è piaciuto il film? Microfono? No, sì, sì, è già acceso. Ah sì, pronto. Buongiorno a tutti. Sì, il film mi è piaciuto e mi viene anche difficile parlarne. Cioè, è la seconda volta che lo vedo perché mi hanno mandato il link, la seconda volta è stato anche più forte, non so. Quindi, come dire, se uno dice qualcosa, cioè, il timore è quello di sovrapporre delle sensazioni che ciascuno ha, anche perché è un invito a... Forse è questo che voleva fare il regista, un invito a ripensare un momento storico assolutamente decisivo, cioè ci sono tutti questi personaggi, Proudhon, Bakunin, che sono dei personaggi che hanno avuto delle vite, Bakunin ha avuto una vita pazzesca, lui è stato esiliato in Siberia, poi è scappato dalla Siberia, ha fatto tutto il giro del mondo e è riapparso in Europa dal Giappone, cioè, senza denti, completamente distrutto, c'erano gli esuli russi lì che dicevano questo da dove viene, ah, Bakunin è tornato. E ci sono questi personaggi diciamo che sono dei romanzi ciascuno, no? Così come è un romanzo tutta la storia anche di Marx, anche quello che farà successivamente. E il film colpisce moltissimo perché c'è questa sensazione, questa consapevolezza precisa di questi due ragazzi giovanissimi, che era necessario fornire una consapevolezza alle classi oppresse, perché senza questa consapevolezza politica, senza questa identità politica, le rivolte sarebbero state tutte quante sconfitte, perché senza un pensiero corrispondente alla condizione materiale, ovviamente lui critica Weitling, perché Weitling è un predicatore che non ha nessuna base teorica. E lì anche la critica che fa Proudhon, poi a distanza di tempo in qualche modo bisogna vedere se c'aveva ragione l'uno o l'altro, perché praticamente Proudhon lo accusa di essere troppo schematico, cioè di avere delle categorie fisse che sono quelle della dialettica, che poi tesi, antitesi e sintesi, e lui questa cosa non l'accetta, lui vede la realtà sociale molto più sfumata, quindi vede sì la dialettica è giusta, però c'è sempre un qualche cosa che sfugge, perché è qualche cosa che riguarda la realtà sociale, la realtà umana, e che non può essere ricondotta al positivismo delle leggi dell'economia. Quindi lì è interessante, no? La chiusura del film ricorda che il manifesto, ma soprattutto il Capitale, è un'opera in movimento. Sì, è un'opera in movimento, esatto, però il movimento è comunque molto legato alle condizioni dell'economia, no? Questa è un po' la critica che viene fatta, però l'importante appunto è questa idea di avere una consapevolezza, vuole essere una consapevolezza scientifica. E poi è impressionante come in quegli anni vengono poste le basi di un ciclo storico che è durato fino alla caduta del muro di Berlino. E quindi, come dire, la potenza e la forza delle idee. E la potenza è la forza delle idee, che però proprio per questa forza, proprio per questa potenza, poi se le idee hanno anche un pelo, un qualche cosa che non corrisponde o che comunque hanno un errore di base, finisce per produrre dei disastri, perché poi Proudhon dice anche tu, insomma, stiamo attenti, che perché con questa logica tu stai creando qualche cosa che distrugge te stesso, cioè ti avanza una critica che non possiamo dire che sia una critica, però aveva intuito che in quel modo di ragionare c'era qualche cosa che non funzionava tanto, insomma, ecco. E, non so io cos'altro posso aggiungere. Diciamo che magari se tu vuoi qualcosa, perché mi viene un po'... A me ha colpito la rappresentazione della Lega dei Giusti, sì, e come loro in qualche modo, perdona il termine, ma nel senso positivo, giocano, ne hanno bisogno, ma in qualche modo... capiscono che quella lega lì, come gli viene presentata all'inizio, no? Quando in questa specie di colloquio esame in cui li preparano, gli dicono: allora, quelli loro sono passati attraverso esperienze, si sono sporcati le mani, voi siete due intellettuali sostanzialmente. E in qualche modo, secondo me, attraverso la forza delle idee, come dicevi tu, loro riescono a entrare, riescono a imporsi. E però questa Lega dei Giusti, che erano riusciti a mettere su una lega, un network, oggi si direbbe una rete, poi si erano fermati, non riuscivano ad andare avanti, e quindi soprattutto quelli più anziani, quelli che poi quello che va a Bruxelles gli dice venite con noi, capisce e riconosce che hanno bisogno di questo, come dire, questa energia fresca per spazzare via loro stessi in qualche modo. Sì, infatti lì è molto interessante perché chiaramente loro sono due che hanno studiato, partivano appunto dallo studio di Hegel, dallo studio della condizione, ma che quindi il fatto che la Lega dei Giusti poi gli dà questo spazio, gli fa scrivere il manifesto, vuol dire che loro avevano anche loro stessi capito che bisognava avere una teoria per avere un'azione politica, che senza teoria l'azione politica non è efficace. E quindi questo fatto di avergli dato questo spazio, di avergli dato questa opportunità è un passaggio molto interessante del film, nel senso che poi il manifesto del Partito Comunista, dobbiamo ricordare che è il testo più letto al mondo, cioè un testo che è stato tradotto in tutte le lingue, non c'è nessuno. Credo dopo la Bibbia. No, non credo, perché mi c'è la gioca. No, in Cina la Bibbia non credo che la legga, invece il manifesto sì, capito? Quindi secondo me la Bibbia non... Compete. Sembra perché è... siamo dei gesuiti qui poi, No, diciamo che forse una cosa che si può dire ecco, rispetto a questa forza delle idee, da un lato le idee sono fortissime nella misura in cui riescono a mobilitare, ma poi nel momento in cui crollano delle idee è impressionante come crolli proprio tutta la struttura politica corrispondente, cioè nel momento in cui per tutta una fase storica il marxismo era considerato, era diciamo, la carta di lettura dell'intera società, no? Cioè tutti quanti, diciamo, anche nella dialettica, in chi condivideva delle cose, in chi le contestava, però era una base con cui si poteva leggere la realtà e discutere. Ed era una teoria di un movimento sociale, per cui poi si metteva insieme, anche se poi magari non erano più neanche marxisti, però c'era questo fondo comune per cui quello che combatteva in Vietnam si sentiva vicino allo studente negli Stati Uniti e quello del ragazzo che combatteva la mafia si sentiva vicino all'operaio del nord, cioè è una struttura di pensiero che praticamente consente un'azione comune, un'azione collettiva di persone in condizioni materiali completamente diverse, no? Cioè persone che vivono una realtà completamente diversa che però dietro queste idee, dietro questi testi di Marx, dietro il manifesto del Partito Comunista, riuscivano come delle formiche, come tante cose, ad avere un comportamento indirizzato a un fine comune, che era una società più giusta, una società senza classi, eccetera. Nel momento in cui quest'idea è fallita, e si è disperso tutto, è impressionante, cioè si è disperso tutto, impressionante, perché la realtà sociale, di fatto le persone vengono tenute insieme anche sulla base di idee che vengono diffuse in qualche modo in cui uno si riconosce. Nel momento in cui queste idee falliscono, la delusione è pazzesca. Io penso che si può analizzare, adesso non voglio citare il mio testo, però diciamo si può discutere a dismisura del disastro che portano che ha condotto al neoliberismo, ed è un aspetto essenzialmente fondamentale, però non ci possiamo limitare a questo, bisogna anche capire perché l'opposizione al modello neoliberista è crollata e capire che questo crollo è stato quasi antecedente, perché già negli anni 70 si capiva che il sistema, diciamo che il marxismo aveva dei grossi limiti, che l'Unione Sovietica non aveva realizzato quello di cui si era detto, e quindi c'era già nell'aria qualcosa che non funzionava. Poi col passaggio con gli anni 80 c'è stato appunto la Reagan, la Thatcher, e già lì molti partiti socialisti in Francia, in Inghilterra, già avevano assorbito i principi del liberismo all'interno, ancora prima di essere sconfitti, già avevano aderito all'ideologia neoliberista. Quindi la sconfitta è in realtà una sconfitta di un'idea, non importa molto dire che il capitalismo ha vinto, se il capitalismo ha vinto e si è affermato in questo modo è perché la struttura di pensiero che aveva cercato di contrastare il potere del capitale in realtà aveva delle fragilità che a un certo punto hanno mostrato, e improvvisamente tutta questa forza gigantesca del mondo che andava dietro, che cercava e riusciva anche a contrastare il modello capitalistico, si è trovato senza armi, senza strumenti. E quindi il pregio di questo film è quello di, diciamo, che mette l'accento sulla forza delle idee e sulla necessità di fare i conti con Marx da un lato per la generosità di questo tentativo di rivolgersi agli umili, agli oppressi, alle persone che soffrono, a chi sta male, e quindi questi ragazzi di 20 anni che alla fine dedicano la loro vita alla ricerca e alla rivolta, in qualche modo. Lei dice a un certo punto: io mi annoio, non sono contenta, la mia vita non è bella se non è una vita sociale, una vita vera, una vita che sente l'esigenza di un ruolo politico, di un ruolo sociale, perché è bello farlo, no? perché dà identità alle persone. E dall'altro però, appunto, un discorso che adesso è complicato fare, però cercare di capire in che misura invece questa teoria, questa idea di, come dire, di mettere completamente da parte la fratellanza, di pensare soltanto alla lotta di classe, anche questa idea molto forte della necessità dello scontro fisico, no? Dell'antagonismo anche fisico, che in quel contesto aveva una forte giustificazione, perché nel momento in cui i bambini muoiono di fame, gli operai campano 30 anni, e fra l'altro Marx muove proprio da questo senso di ingiustizia che c'era con i primi articoli sui beni comuni, no? Sull'idea che appunto che gli operai, che i poveri non potevano più raccogliere la legna, lui li si indigna. E quindi, diciamo, questa è una necessità di contrastare anche con... però, diciamo, quest'idea della violenza fisica poi bisogna vedere da cosa è supportata, cioè se c'è veramente una filosofia della storia che poi porta un'altra classe, oppure se è necessario un discorso più profondo sulla dialettica sociale, insomma, ecco. Io ti ringrazio per il punto in cui volevo arrivare, perché quello che mi sembra che manchi oggi davanti a una disgregazione neoliberista, la possiamo chiamare, e una sperequazione molto elevata, è appunto, come dire, un'idea forte alternativa. La cosa della legna con cui si apre il film, io purtroppo, ormai è passato un po' di anni, ma è appunto una cosa un po' ciclica, in questo cinema più di 10 anni fa facciamo vedere un documentario che si chiama The Corporation, sulle grandi corporazioni, e un pezzo racconta di come un paese sudamericano, piccolo, non mi ricordo quale, la Bolivia, che privatizzava la pioggia, esatto, sì. Una compagnia americana privatizzò l'acquedotto, l'acqua pubblica divenne tutta privata. Ad un certo punto i prezzi schizzarono all'eccesso e la gente iniziò a raccogliere l'acqua piovana. La corporation denunciò la popolazione per furto, sostanzialmente, per appropriazione indebita, e il problema quale fu? Che il governo boliviano iniziò ad arrestare le persone o a perseguire le persone che raccoglievano l'acqua da fiumi, ruscelli, pioggia, eccetera. E lì, per fortuna, la risposta fu quasi automatica. A un certo punto avevano esagerato, la gente scese in piazza, ci fu una decina di giorni di scontri molto violenti e costrinsero in tutto il paese, costrinsero la Bolivia a tornare indietro, a rendere pubblica l'acqua e a licenziare la corporation. Ma io non sono sicuro che 15 anni dopo questa cosa... Beh, lì in Bolivia hanno fatto una costituzione molto vicina, che poi ha vinto Morales, certo. Esatto. Cioè lì sono arrivati appunto addirittura a privatizzare la pioggia, nel senso che appunto era vietato raccogliere l'acqua piovana perché non era market friendly, come si dice. Ecco, no, ma fra l'altro questa cosa del film mi consente di ricordarti un altro passaggio interessantissimo di questo film, che praticamente, un po' per gioco, un po' sul serio, prendono una cartella del DSM-4, del manuale di psichiatria, e praticamente fanno la diagnosi psichiatrica al comportamento delle multinazionali, e viene una diagnosi di schizofrenia, praticamente. Ecco, e quindi, perché? Perché dice violenta, non mantiene le relazioni, ha un'affettività, perché il comportamento delle multinazionali è questo. Ma che cosa c'è a monte del comportamento delle multinazionali? Perché poi non è che le multinazionali cosa sono? Sono, come dice Robert Reich, le società sono dei mucchi di contratti, non è che... E quindi c'è un'antropologia dietro. L'antropologia dietro, che c'è questo comportamento, questa logica del profitto portata al punto tale che poi si ritorce contro la società stessa, perché uno deve essere un demente per pensare che va in una società e vuole privatizzare l'acqua, vuole portare l'acqua ai poveri e poi privatizzare la pioggia. Ma è chiaro che viene preso a calcio e viene mandato via, cioè mi sembra anche logico, no? Ecco, però questo comportamento così, diciamo, così freddo, così calcolante delle multinazionali, che si ritorce contro l'attività economica stessa, per cui molti dicono che questo livello di, ormai anche il sistema finanziario, questa logica di così di breve periodo, alla fine è distruttiva nei confronti della stessa attività di impresa, perché l'impresa ha, diciamo, anche interesse ad avere un'ottica di lungo periodo, c'è interesse a trattare bene gli operai, cioè c'è tutta una serie di motivi. Avrebbe, però molti imprenditori, ad esempio, sono imprenditori che nel momento in cui c'è stata la crisi hanno preferito diciamo, rilanciare, vendersi delle case piuttosto che chiudere e mandare a casa gli operai. Però dietro, quindi io, diciamo, la critica che faccio non è all'attività di impresa né al mercato in sé, la critica è all'antropologia che c'è dietro. E l'antropologia che c'è dietro è un'antropologia che è quella dell'uomo economico, cioè l'uomo economico è un essere perfettamente razionale, che è quello che sta alla base dei modelli della teoria economica dominante, perfettamente razionale, che calcola senza nessuna dimensione emotiva, che si muove sulla base dell'annullamento della realtà circostanza, cioè il rapporto che l'uomo economico ha con gli altri esseri umani è basato su quella che Massimo Fagioli chiama pulsione di annullamento. Io penso che diciamo che riuscire a comprendere non solo la violenza fisica, ma la violenza interna di una dimensione di rapporto economico dove l'altro essere umano è completamente cancellato come essere umano, è ridotto a merce, che poi è quello che diceva Marx quando parlava del feticismo delle merci, no? Nel momento, il feticismo della merce cos'è? È che l'essere umano è considerato come un oggetto materiale. E quindi, ecco, Engels si ribella a questo all'inizio. Poi diventa un dialogo tra noi, se ci sono domande. Ecco, sì, è meglio perché. Però ti ricordo una cosa: c'è una differenza tra il distretto industriale italiano, tanto per fare un esempio, qui ci sono tante piccole e medie imprese, ci sei tu che hai un'azienda, conosci, magari non conosci i tuoi 300 operai, ma li vedi. E la struttura multinazionale che è completamente deresponsabilizzante. Cioè il consiglio d'amministrazione che parla di cose astratte, vede dei documenti. Però quelli che fanno le nostre politiche economiche sono loro. Esatto, no, no. Cioè, quindi quella cosa, la schizofrenia deriva dal fatto che tu non hai un'astrazione totale. Ditemi se vi è piaciuto il film, è un'anteprima, quindi in realtà dovete dirci se direte, farete passaparola, oppure se vi ha appesantito, se vi è interessato, avete domande, avete commenti, eccetera, eccetera. Siamo stramazzati. Attenzione. Un po' sì. Che dici, facciamo andare a letto? Vogliamo... No, volevo ringraziare Stefano che mi ha dato questa opportunità. Che Stefano Stefani che sta qua, se vuoi fare un saluto. Che fa finta di nulla. No, che so. Dopo anni di anteprime... Il post film ormai non lo fai più, no, proprio... ma lui ha raggiunto un altro livello, un secondo livello. Allora, io ringrazio voi, ringrazio anche Andrea che è venuto poi da Roma, ringrazio voi della serata, era difficile portare tanta gente di giovedì sera prima di Pasqua, ci siamo riusciti, grazie a voi. Era anche difficile parlare.